fidata lei patroce, armata di furore, armata di furore, m'ingombra di terrore, fidata lei patroce, ehi, non ridirmi fa. All'orrido soggiorno, uscir già parmi intorno, criata per la trote, armata di furore, ingombra di terrore, ehi, non ridirmi fa, armata di furore, m'ingombra, l'inata bel patroce, i non ridirmi fa. Ed una voce io sento, ecco rimbomba e mugge, rimbomba e mugge. E male già minaccia, e male già minaccia. Scampa dal rio spavento, l'alma da me s'infugge. Eppur, morir non sa. Eppur morir non sa. Dall'orrido soggiorno, uscir già parmi intorno, mirata bel patroce, armata di furore, m'ingombra di terrore, mirata bel patroce, ehi, non ridirmi fa. All'orrido soggiorno, uscir già parmi intorno, fidata bel patroce, armata di furore, ingombra di terrore, ehi, non ridirmi fa, armata di furore, m'ingombra. Bel patroce, i non ridirmi fa, i non ridirmi fa.